Federico si è occupato per tantissimo tempo, si occupa sempre di radio. Io l'ho conosciuto, l'Alphaville l'ha conosciuto grazie ai Visionari, Radio Onda Rossa, che è appunto il suo programma. Visionari proprio in tutti i sensi, cioè visioni cinematografiche, ma anche visionari nel senso di una forma di follia, secondo me, che ci accomuna tutti, insomma. Io ci ho partecipato pure per parecchio tempo anche, tutti i giovedì. E continua, adesso poi vi spiego. E continua, è una rubrica eccezionale perché all'interno c'è una specie di caleidoscopio a 360 gradi di tutto quello che avviene, gli eventi, no? Tu dimmi se sbaglio, gli eventi, la cultura cinematografica, gli operatori culturali, le rassegne, tutto quello che succede che riguarda il cinema. E io Federico l'ho conosciuto lì. Stavo dicendo a lui che quando appunto mi ha detto che aveva realizzato questo, è il tuo primo libro? Questo primo libro, io tante cose non le sapevo di Federico, le ho lette, mi appassionava la lettura di questo libro che lui ha scritto, che è un libro che ha a che fare ovviamente con Federico, Fedingo, giusto? Fedingo, però in realtà ha a che fare con lui perché è la sua vita, questi 30 anni che sono trascorsi, forse addirittura qualcosa in più, però è anche la vita che si è vissuta a Roma, che si è vissuta dal punto di vista politico, sociale, culturale. E lui è uno di quelli che ne ha fatto parte e secondo me che continua a farne parte. Infatti il libro si chiama Quando il fumo si dirada. La mia domanda prima a Federico è: ma si è diradato sto fumo? Cioè, voglio dire, tu pensi che si sia diradato il fumo? No, è perché è una domanda importante. Federico, raccontaci questa tua prima esperienza con la penna e come mai ti è venuto in mente di fare. Io lo immagino perché ti è venuto in mente, però dillo tu. Buonasera a tutti. Ecco. Io non ci pensavo proprio. Appunto, io immagino. Non ci pensavo proprio. Scritto. Poi... questa ragazza qui che si chiama Valentina. Valentina, sentendo un po' di racconti, di fatti, incontrando le persone, perché poi conosco tanta gente, quindi c'è sempre stato modo a Roma in vari posti di parlare con le persone, e lei ha cominciato a chiedere: ma perché non ne scrivi un libro? E io però non ne capivo bene lo scopo, non capivo neanche a chi potesse interessare questa vicenda. Le donne ci hanno sempre detto, E poi è capitato che un amico dal periodo del movimento studentesco della Pantera, Andrea Catarci, che è stato presidente del municipio di Garbatella per due mandati, ha scritto un libro lo scorso anno, Generazione di rimessa. Anche quello è un libro autobiografico. Parte dagli anni Ottanta. Come il suo, perché sì, questo è un libro autobiografico che va da quando sei piccolo, con i capelli lunghi anche, che non c'è le foto però, è l'unica cosa che mi lascia perplesso, cioè ci potevamo mettere una foto di Federico con i capelli lunghi e la striscia, vabbè andiamo avanti, scusa per te. E lui poi racconta di una realtà, lui è nato e cresciuto ad Anguillara. Anguillara Sabazia, sì. E poi l'ho intervistato per questo libro, per il mio blog, ma anche per la radio. E poi lui mi ha proposto di fare una presentazione insieme, in forma di dialogo, come stiamo facendo io e te adesso, certo, al Lago di Bracciano. Io ho accettato e mi sono letto il libro e poi, sentendo un po' una chiacchierata ci siamo fatti le sue parole, ho detto, ma allora è un'operazione possibile. Anche perché parlo di una situazione romana che ha visto succedere tante cose dal movimento appunto. Sta tutto qua, eh? È una cosa incredibile le cose che ci sono scritte qui dentro, veramente. Dal movimento studentesco della Pantera alle occupazioni dei centri sociali che a Roma hanno significato tanto dal punto di vista culturale e sociale, e poi in momenti anche storici importanti del processo PRIP che se tu hai seguito proprio. Sì, ho seguito come corrispondente, un fatto storico di notevole importanza, fino ad arrivare all'occupazione del Teatro Valle, sì, che è stata un po' l'ultima esperienza sociale che mi ha entusiasmato. Era un'esperienza nuova per quello a cui ero abituato fino a quel momento. E per cui poi mi si è reso conto che è una storia attraversata da migliaia e migliaia di persone. E allora ha detto, e allora forse ha senso scriverne. No, ha molto senso. Io l'ho letto con, lo dicevo, scusa se ti interrompo, ma hai capito di dire questo, però Lo dicevo perché io ho iniziato a leggere il libro conoscendo Federico e ho detto vabbè, vediamo se mi appassiona come io penso, perché potrebbe essere che magari invece no, ma chi se ne frega di tutte queste cose. E invece no, no, perché io ricordo benissimo tutti questi passaggi, le occupazioni, certo non le ricordo come le ricorda dal suo punto di vista Federico, però insomma hanno fatto parte della mia vita. No, io non mi sono occupata di occupazioni, però facevo dell'altro, sempre però con questa idea, no, di quasi, non dico è ridicolo di cambiare il mondo, ma di cercare di farlo più avvicino alla figura di un essere umano, insomma, che abbiano tutti gli stessi diritti, gli stessi doveri, che si possa lottare per ottenere delle cose che vanno bene per tutti. Mentre iniziavo a leggere il libro, a parte che non mi divertiva sto fatto che io tante cose lui non le sapevo, quindi ero molto affascinata. Ma guarda, pensa te, ma questo è una... Cioè, a 45 anni si sentiva, ma oddio, no. Ma pure mia madre è rimasta, cioè, tante cose non le sapeva neanche mia madre. Ma chi le conosce, non lo so. Cioè, non sapevo questo fatto. Dice, no, invece no, era il reflusso gastrico, che là mi ha preso, meno male. Infatti ho detto, oh, però Federico sta qua, sta bene. Quindi la cosa, e vuol dire che è stata superata egregiamente. Questi amici, questo fatto per esempio di raccontare, a me mi ha molto preso, cioè io poi non ho, gliel'ho detto a lui, non lo dico per piaggeria o perché Federica è un amico, una persona cara, ma a me mi ha preso, cioè io praticamente l'ho iniziato a leggere, no. Quando ci siamo sentiti ho detto guarda, l'ho finito rapidamente perché era una cosa che mi appassionava. Ora mi sono chiesta anche se mi appassionava perché era Federico, ma poi in realtà no, perché dentro ci sono tutta una serie di situazioni che noi tutti abbiamo vissuto con amici diversi, con persone diverse, eccetera, ma che in qualche modo abbiamo proprio condiviso anche con difficoltà, anche con tristezza, anche con rabbia, ci siamo resi conto che quello che avevamo fatto era vero. Per questo io dico, ma la nebbia si è digradato, questo fumo si è digradato, perché poi alla fine di tutta questa storia, appunto, che finisce per te, che finisce in questo libro per te, perché il seguito è quello che stiamo vivendo, lo scopriamo solo vivendo, però in effetti, cioè, la domanda che mi sono fatta alla fine, ho detto vabbè, però sì, Federico ha fatto tutto questo, gli altri insieme con lui, eccetera. E oggi, secondo te, di tutte queste cose, che ognuno in un modo piuttosto che in un altro, gli amici, le persone che sono, quelli che l'hanno fatto, quelli che ci sono stati male, quelli che non ci sono più, quelli che si sono drogati, quelli che sono rimasti, hanno capito che no, non era il caso perché avremmo perso prima la battaglia. Ma detto questo, oggi, no, Federico, in tutto questo, dopo che hai scritto questo, che pensi tu? Questo fumo, questa diradandosi il fumo, tu che scorgi? Allora, il fumo si è diradato per me. Infatti posso, dicevo, si è diradato. Posso guardare l'esperienza passata con un maggiore distacco, con più obiettività, e rifarei tutto. Ecco, nonostante altra tutti gli errori che uno ha fatto. L'esperienza umana prevede anche questo, insomma. E il fumo si dirada adesso per le generazioni successive, i più giovani. Ma questi giovani, che queste generazioni nuove, no? Che non siamo. Ci si devono trovare in mezzo a questo fumo e devono capire cosa tu fare. Tu senti che c'è un fermento nell'aria, un po', non dico come quello che c'è stato quando appunto sono iniziate le cose per te, per noi, eccetera. Tu senti che nell'aria c'è? Beh, a livello globale c'è questo forte movimento ecologista che ha un peso rilevante. Poi ci sono i movimenti degli afroamericani negli Stati Uniti, stiamo vedendo, insomma, sono mesi che stanno in piazza, determinando anche un pezzo di storia importante di quel paese. Beh, perché continuano a succedere cose incredibili. Morti su morti. Appunto, cioè, voglio dire, non è finito. No. Anzi, va avanti in maniera spedita al contrario, certo. Sì. In ogni paese ci sono i cambiamenti che la gente ritiene necessari e indispensabili. In Italia... Io mi dai la bisanto di fare. In Italia, secondo te, in Italia, nella nostra città, nel nostro paese, paese con la sì, P maiuscola? Il nostro paese, e in Roma in particolare, si muove tanto nell'associazionismo di base, negli spazi sociali, appunto, i centri sociali costituiscono tutt'oggi un patrimonio notevole in questa città. Forse manca una scintilla, manca qualche soggetto politico e sociale che sia un po' punto di riferimento. Manca, secondo me. Sì, però comunque tutto continua a muoversi, magari in maniera carsica, sotterranea, però Ce lo dici, Federico, io sono contento perché cioè, non è che sembri così tanto, quindi voglio dire, no. Se però mi dici che questa cosa dal tuo punto di vista, lui ha fatto tante cose, tante occupazioni, tante situazioni, insomma, sì, per cui sì, si sì. È esposto in prima persona, esposto in prima persona e con le conseguenze che sappiamo, perché poi se le ho pagate tutte. Appunto dico, sì. Cioè non è che sembri così, sì, però sì. Se tu dici che no, io ci credo assolutamente, anche perché mi sembra che sì, c'è comunque un fermento, forse andrebbe un minimo, no? Ci vorrebbe proprio, come dici te, quella scintilla che, sì, sì. Che però forse manca. Volete fare qualche domanda? Certo è difficile, non avendo letto il libro, fare una domanda, questo io mi rendo conto. Però ecco, stiamo parlando proprio della storia di questi 30 anni di, ma sì, di promesse, ma anche di illusioni, ma anche di cose sì. Che si, qualcosa l'abbiamo ottenuta, no? Beh sì, sì, sì. Considerando, insomma, la città degli anni 80 è molto diversa, anche per certi versi meglio. Perché però dici è... meglio? Beh, insomma... Qual è secondo te la cosa che dal tuo punto di vista, dalle tue esperienze, in qualche modo è migliorata nella coesione magari di gruppi? Di movimenti di base, secondo me, sì. Sì, dell'auto-organizzazione delle persone, perché... La gente nei decenni ha capito che quando vuole una cosa, piuttosto che stare a chiedere a riferimenti politici di turno, forse si rimbocca da soli, le maniche, da soli. Si organizza insieme ad altre persone e le cose si fanno. Quindi questa cosa come determinazione c'è? Sì, sì, secondo me sì. Sì. Poi non vivo più tutto con quell'intensità. Non si può anche nemmeno fare fisicamente. Non ce la potrei fare. Non ce la potresti fare. Che tecnicamente ci vuole una certa età, giovanità, sì, diciamo, per fare tutte le cose. Qualche anno in meno ci vuole, sì. Quindi è chiaro che non è possibile. Però ecco, continuo ad essere, io mi definisco un po' un operatore culturale, perché poi mi occupo di cinema e teatro e vedo che le cose si muovono comunque anche ecco a livello culturale oltre che sociale e secondo me le basi ci sono. Senti, di tutte le tue esperienze che sono descritte così veramente in maniera molto realista in questo perché e poi appunto fa parte della tua vita. Ti interrompo un attimo, spieghiamo anche, mi è venuto quasi automatico la terza persona. Io sì, ecco, la terza persona. Scrivo in terza persona proprio per quel motivo che ti dicevo prima. È una storia che ha attraversato generazioni e migliaia di persone, quindi mi sono per certi versi sentito parte di un tutto, quindi era giusto vedermi dal di fuori insieme ad altre, certo. Ad altre persone, perché poi... Ma infatti questa è una cosa molto, secondo me, molto interessante questa terza persona, perché alla fine in realtà non ci sei te, no? È giusto, è proprio quello che dicevi tu adesso, non ci sei tu, ma c'è tutto quello che insieme con te si è mosso e quindi fa tutto parte di un gruppo, dei gruppi, le cose che sono successe, cioè ci sei te ma non ci sei solo te, sì. E questo secondo me è... No, questa è una cosa intelligente, io pure avrei fatto in terza persona, perché mi dice... Sì, e infatti attrae... All'inizio può spiazzare, però... No, all'inizio dice, ma chi è questo? Cioè, chi parla? Chi è questo che parla in terza persona? Si chiama Fedì, ma poi non è mai lui. Però poi alla fine ti rendi conto che invece è come fare a 360 gradi una ripresa, sì. Capito? Invece di stare lì sul dettaglio, sul primo piano. Questo secondo me è molto... Scusate... Ma era per fare una cosa cinematografica che mi viene più facile. Beh, c'è anche molto cinema. Poi c'è molto cinema, infatti io volevo arrivare pure a questo. Alcuni eventi questo... sono molto cinematografici. Esatto, ci sono... Nella vita normale poi, certo. Certi eventi, tu pensi, ma sto dentro un film. Ma veramente, sono il protagonista. Sta succedendo questo? A me, mi sembra un film, è così. No, e poi c'è una cosa che volevo dire di Federico, è questa attenzione particolare al cinema, al teatro, che lui ha sempre avuto appunto direttamente revisionari, ma sempre in tutte le cose che fa, i premi che hai istituito, insomma voglio dire una cosa interessante che continua adesso. Dove continui adesso? Che fai adesso a proposito di cinema, teatro, avendo continui a raccontarci storie di cinema e di teatro? Come no? Alla trasmissione di cinema va in onda... Tutt'oggi il giovedì, giovedì è il giorno sacro, un'ora settimanale che tra l'altro è il giorno di uscita dei film. È per questo che tu avrai scelto giovedì? Non sì, neanche troppo però. Casualmente alla fine è arrivato il giovedì. E poi il teatro il martedì, che è il giorno in genere di debutto degli spettacoli, quindi anche lì La scelta un po' casuale, un po' no, sempre in radio. Poi seguo alcuni festival in particolare, c'è per esempio il Clorofilla Green Festival che si svolge intorno al periodo di Ferragosto a Festa Ambiente in Maremma, vicino a Grosseto, e quello lo seguo, lo faccio oltre che il giurato, do una mano a Simonetta che è un po' l'organizzatrice, faccio anche il presentatore delle serate con gli ospiti, gli autori, le autrici che intervengono. Poi volevo dire una cosa a proposito di cinema, che un'altra delle cose che devo, insomma, a Federico è questo incontro che abbiamo avuto con Ottavia Monicelli, perché la figlia di Mario Monicelli, una dei figli di Mario Una Monicelli, delle tre delle tre figlie. figlie di Mario Monicelli, che qui non c'è mai stato perché una volta lo chiamai per farlo venire qui per una presentazione di un suo film, però pensa, lui si dimenticò. E io parlai con una delle figlie che non è Ottavia, dicevo, ma purtroppo è fatto così, vabbè, si è dimenticato. Però evidentemente il destino vuole che le cose in qualche modo ritornino, perché poi grazie appunto a Federico ho conosciuto Ottavia Monicelli, che è stata qua anche, siamo stati insieme, abbiamo fatto le cose insieme Per la Grande Guerra. per la Grande Guerra, e poi tra l'altro sempre grazie a Federico, insomma grazie a tutta questa, che Federico è un aggregatore secondo me, cioè c'è cioè Sì, come ruolo mi piace, l'aggregatore. è vero. Tu sei un aggregatore secondo me. Alla fine, insomma, mi ricordo che una volta mi chiamarono perché stavano facendo questa trasmissione Tracce di cinema, mi Sì, pare, sulle colonne sonore sulle dei film. colonne sonore, e Federico mi chiamò insieme a Ottavia, che avevamo già conosciuto qua, per dire: senti, puoi parlare? Io adesso non mi ricordo di che ho parlato, però non mi ricordo, che risale a qualche anno fa. Però parla, fu una bellissima trasmissione, io mi sono tanto divertita, perché in realtà mi hanno chiesto di parlare della colonna sonora di un film che non ricordo, però l'ho fatto, nel senso che all'epoca, insomma, mi ricordo di avere, ho detto sì, perché no, parliamone insieme, ho detto però fatemi andare a cercare le cose, perché non è posso parlare così tanto per sentire. Vabbè, Devo andremo a vedere in cercare archivio. nell'archivio, tanto c'è tutto, tutto quello di cui stiamo parlando c'è. Quindi non è un problema. E mi ricordo che fu una trasmissione fortissima insieme con lei. Vabbè, c'era anche Federica, abbiamo fatto questa cosa insieme. Poi loro, era lui con la trasmissione, quindi hanno continuato, hanno fatto altre colonne sonore, eccetera. Però io a lui do sempre, a Federico, cioè, ogni volta che lo penso all'aggregazione, perché è grazie a lui che a volte Sì. succedono delle cose che tu non ti aspetti, E però. quasi tutto casualmente succede perché il mio ingresso in radio è stato abbastanza casuale per un amico che voleva fare una trasmissione di musica. Io ho chiesto alla redazione e abbiamo cominciato insieme. Poi lui se n'è andato e mi sono ritrovato da solo a gestire la trasmissione musicale che non avevo voluto io. E poi Però da lì sono venute le cose. Nella trasmissione cinema ho scoperto poi che Mario Monicelli era un ascoltatore di Radio e c'è Onda scritto Rossa, infatti qua certo. questa cosa fighissima, E lui Mario ascoltava, era uno dei miei ospiti, era un ma lui battitore lì. raccontava. Sì. Lui ogni tanto lo chiamavo a casa per parlare di qualche film o di qualche festival a cui era andato. E tramite Mario poi ho conosciuto sua figlia. Quando Mario è scomparso, Ottavia ha proposto una trasmissione alla radio sulle fiabe per bimbi lette da attori e attrici. E lì ci siamo conosciuti. Mi hanno rivolto la sua domanda a me, che mi occupava un po' di cultura, di teatro, di cinema, e abbiamo cominciato insieme. Quindi Mario ha portato all'amicizia con Ottavia. Quindi... E poi Ottavia è venuta qua. Ecco, no, per dire, cioè, tutte queste cose, lo dico perché lei è proprio un aggregatore. Scusa, io vorrei ritornare al discorso. A chi è rivolto questo A libro? chi è rivolto questo libro? Ah, Perché forse... alle persone che come te hanno fatto quell'esperienza sanno tutto. Sì, no, infatti. Ma mica tanto tutto, È dipende. vero. No, a chi ha Chi fatto l'ha vissuta, l'esperienza sì. come lui, che le ha vissute, sa tutto. Boh, a chi sono gli altri a A cui chi può stava interessare? dall'altra parte, non ti dico quanto vi abbiamo odiato, chi già lavorava, i giovani, forse proprio giovanissimi, che quelli che guardano un po' di storia del passato, non, cioè non ho idea di qua, tu a chi l'hai dedicato, cioè, a quale A chi lettore? lettore? Allora, innanzitutto alla fine era per me, Per te o per chi come te, come ripeto, ha vissuto quelle cose lì perché anche mettere con per passione, eccetera. Chi invece li vedeva proprio come, non ti dico, vabbè, non ci sono proprio parole, chi già lavorava, capito, a questi sì. centri sociali, per carità, e cioè quello non. Ecco, chi rimane? Forse i giovanissimi, vedere Giovanissimi. come i giovani di 20 anni fa Giovanni. magari partecipavano alla vita Sì, sociale, è non un so, pezzo di storia. funzioni. Sì. Di storia. Potrei aggiungere un'osservazione? Certo, vai. Non credo che chiunque viva un periodo venga vissuto in modo omologato per tutti. Ognuno ha un suo modo di vivere quel periodo. Quindi il libro, penso, nel mio modestissimo parere, possa essere rivolto a chiunque abbia anche vissuto quel periodo, insieme a te, se posso partire tu. Quindi credo che ognuno ha una visione del tutto privata e personale di quel momento storico. Il momento storico non omologa, io lo vivo in un modo, te lo vivo in un altro. Piuttosto, volevo fare personalmente una domanda allo scrittore. Diciamo, il percorso che ti ha portato alla fine è stato uno senza soluzione di continuità, piano sequenza unico, vogliamo dire? O ci sono stati vari tagli, cut, eccetera, per portarlo con una metafora cinematografica, visto che siamo ad Alphaville, no? Mi interessava sapere come si era svolta questa cosa, se era stato un tutt'uno che ti aveva portato alla fine del libro, o se c'erano stati dei tagli e delle fermate, insomma. E come avevi superato queste fermate per poi riprendere, se avessi mai avuto una crisi della pagina vuota. Te lo faccio anche nell'interesse mio personale, direi. Quindi mi interesserebbe sapere la tua risposta. Il periodo dei centri sociali ha coperto diversi anni, e poi c'è stato un graduale interessamento al giornalismo. Quindi, sai, poi con l'età era pure giusto che delle occupazioni e delle attività sociali e culturali negli spazi dei quartieri si occupassero i più giovani. È pure giusto un ricambio generazionale. E quindi c'è stato un graduale allontanamento, perché poi ho cominciato a scrivere per giornali, per quotidiani, per siti, riviste. E quindi è stata abbastanza graduale, non c'è stata una cesura netta. L'ultima vicenda politica seria è stata quando c'è stato Abdullah Öcalan a Roma, sì, sì. Dove ha chiesto asilo politico, poi l'Italia non glielo diede e fu arrestato in Africa. E diciamo, quella fu l'ultima grossa mobilitazione che ha riguardato a Roma migliaia di persone, c'è una forte comunità curda a Roma. E poi, oltre al giornalismo, ho cominciato a interessarmi al cinema e al teatro, che mi hanno preso molto l'interesse, le energie, perché ritengo che il cambiamento culturale sia il primo passo per trasformare una società. Non ho dubbi, guarda, e quindi un'attenzione per gli spettacoli, per le compagnie che hanno fatto esperienze dal basso e che si sono autoprodotti, idem per quanto riguarda il cinema, perché ci sono anche situazioni collettive che si sono create, registi, distributori, festival che si sono messi insieme per creare una forza maggiore. Insomma, dal momento politico-sociale al momento culturale c'è stato un graduale spostamento. No, io perdoni, sì. Devo dire, da quando hai messo mano a scrivere la prima pagina del libro a quando esso poi è stato pubblicato, e stasera siamo qui per la presentazione. Sì. Io intendevo il percorso tuo personale come scrittore che mette mano alla prima riga, sì, del libro. Guarda, come sei arrivato alla fine? Senza soluzione di continuità? Sì, perché non si tratta di un romanzo. Ecco. Sono una serie di ricordi ai quali io ho dato un ordine cronologico, sì, di diversi ambiti in cui sono successi. Sì. E mi sono serviti anche a me, a vedermi dall'esterno, a ricostruire un po' un mosaico di quello che è stato. E poi si parla appunto dagli anni '80, in cui ero al liceo, fino a arrivare alla vicenda, una vicenda familiare, perché poi si chiude con una vicenda familiare per me molto bella e importante, perché io ho avuto un prozio, il fratello di mia nonna, che è stato gasato in un campo di concentramento, uno dei campi satelliti di Mauthausen. E questo l'abbiamo scoperto casualmente, perché lui era andato nella tomba di famiglia, era disperso in guerra. L'iscrizione sulla tomba è disperso in guerra. Poi mia madre, leggendo un libro di un partigiano, Tu passerai per il camino, che racconta l'esperienza degli italiani a Mauthausen, in quell'edizione degli anni 60 veniva riportata in fondo l'elenco di tutti gli italiani che sono morti a Mauthausen, e mia madre ha scoperto il nome e il cognome del suo zio. E da lì è cominciata la ricerca ha un'altra iniziativa sulla memoria storica in circoscrizione, è entrata in contatto con il comitato che assegnava la medaglia agli italiani sia civili che militari che sono stati uccisi nei campi di concentramento. Mio prozio era un militare. Durante l'occupazione nazista a Roma, per difendere una persona ai giardini di San Giovanni, diede uno schiaffo a un ufficiale nazista e lì è cominciato il suo calvario. Insomma, in un anno ha fatto 2 campi di lavoro e 3 campi di concentramento, insomma, finché non è stato ucciso. Anche lì tutto un po' casuale, le scoperte, i fatti, e mi sento una grossa eredità etica da questo punto di vista. Ringrazio. Io concluderei dicendo che abbiamo questo libro, se avete voglia di leggere questa esperienza personale, ma è un'esperienza davvero che ci accomuna tutti, anche quelli che non l'hanno vissuta, quindi è adatta per tutti e per tutti, perché tutti possiamo leggere cosa è successo in questi 30 anni e soprattutto cosa hanno fatto i giovani in quei 30 anni e poi quello che vediamo adesso, insomma, quello che ci siamo fatti anche raccontare. Io chiuderei questo nostro incontro ringraziando Federico per questa bella cosa che mi hai permesso di leggere e spero che leggano anche gli altri, che mi fa veramente piacere perché si parte da te, ma in realtà abbiamo detto è veramente come un campo lunghissimo. E poi un'altra cosa, è l'ultima che dico, è che mi ha fatto molto piacere che quest'anno quando lui è venuto a portare il libro io gli ho detto: guarda Federico, io ti do il mio, e ci siamo scambiati, cioè nello stesso anno, e questa è la cosa che mi piace molto. Nello stesso anno abbiamo scritto 2 cose diverse e ce le siamo scambiate, e questa cosa mi è sembrata meravigliosa perché lui ha fatto la sua rivoluzione e continua a fare la sua rivoluzione, io ho scritto di Pasolini, che è uno che ci ha provato a fare la rivoluzione con gli esiti che sappiamo. Grazie.